Un gatto indispensabile. I primi steli giallo-verdi del Gran Turco cominciavano a spuntare qua e là lungo i solchi del campo. Una sera papà andò a dare un'occhiata. Tornò a casa stanco ed esasperato. Ah, mi tocca riseminare più di mezzo campo. Opa, e perché? Chiese Laura. I citelli, disse papà. Ecco cosa succede se sei il primo a seminare il Gran Turco in una terra vergine. Grace gli si era aggrappata alle ginocchia. Papà la prese in braccio e per farla ridere le fece il solletico con la barba. Lei si ricordava la poesiola della semina e quando fu ben sistemata sulle sue ginocchia si mise a canterellare tutta fiera. Uno il merlo lo becchetta, l'altro il corvo lo porta via, così qui ne crescono due e noi mangeremo in allegria. Quello che l'ha inventata doveva essere uno dell'est, disse papà. Noi qui nel Dakota dobbiamo cantarne un'altra, Grace. Vediamo un po', come ti pare questa? Il primo è un citello, il secondo è un citello, tre e quattro è un citello, non resta niente nel secchiello. Oh, Charles, rise mamma. Non rideva tanto per le filastrocche che inventava papà, quanto per l'occhiata sbarazzina che lui le rivolgeva ogni volta che ne pensava una nuova. Papà aveva appena finito di interrare i chicchi di Gran Turco, che i citelli leopardini, quei graziosi scoiattoli di terra che abitano nella prateria, li avevano trovati. Avevano battuto tutto il campo, fermandosi a scavare con le loro zampette in tutti i mucchietti di terra soffice. Era stupefacente che sapessero esattamente dove erano nascosti i chicchi. Sono un vero flagello, disse papà. Ci vorrebbe un gatto cacciatore come la nostra Black Susan. Lei sì che sarebbe riuscita a contenerli. Anch'io avrei bisogno di un gatto per casa, disse mamma. Ormai i topi sono così tanti che non posso lasciare niente di commestibile nella dispensa senza chiuderlo in una scatola. Non potremmo trovare un gatto, Charles? Non esiste uno in tutto il paese che io sappia, rispose papà. Si lamentano anche i bottegai. Wilmarth pensava addirittura di farsene mandare uno dall'est. Quella notte Laura si svegliò di soprassalto per uno strano rumore. Al di là del tramezzo che divideva le due stanze, sentì un suono soffocato, un grugnito e il tonfo di qualcosa di piccolo e soffice che cadeva a terra. Poi mamma disse: Charles, che c'è? Sognavo, mormorò papà, sognavo che un barbiere mi tagliava i capelli. Anche mamma parlava piano perché era notte fonda e tutta la casa dormiva. È stato solo un sogno, mettiti giù e non tirare tutta la coperta dalla tua parte. Ho sentito il clip, clip, clip delle forbici. Sì, ma adesso dormi. Oh, disse mamma con uno sbadiglio. Ma mi stavano tagliando i capelli, esclamò papà. Non capisco perché ti agiti tanto per un sogno, disse mamma con un altro sbadiglio. Girati dall'altra parte e vedrai che non sogni più. Caroline, ti dico che mi stavano tagliando i capelli, ripeté papà. Ma che vuoi dire? Chiese mamma, che ormai si era svegliata del tutto. Quello che sto dicendo. Mi sono toccato la testa dormendo e. Senti qui. Charles, i capelli sono stati tagliati via, esclamò mamma. Laura la sentì rizzarsi a sedere nel letto. C'è un punto qui sulla testa, si sente toccandolo. Sì, è quello, disse papà. Mi sono toccato la testa. Mamma lo interruppe, un'occhiazza grande come la mia mano, tutta rapata. Mi sono toccato la testa, disse papà, e ho sentito. C'era qualcosa. Cosa? Che cos'era? Credo, disse papà, credo fosse un topo. Dove? Dov'è? Non so, l'ho scagliato via. Oh, signore, disse mamma tra sé. Sì, deve essere stato un topo. Si è preso i capelli per farsi il nido. Qualche istante dopo papà disse: Caroline, giuro che. No, Charles, mormorò mamma. D'accordo, niente giuramenti, però insomma non posso stare sveglio la notte perché i topi non mi rubino i capelli. Oh, come vorrei che avessimo un gatto, disse mamma abbacchiata. Ebbene, la mattina dopo trovarono davvero un topolino morto sul pavimento, vicino alla parete dove lo aveva scagliato papà nel sonno. E papà si presentò a colazione con una chiazza quasi priva di capelli sulla testa. Non ci avrebbe fatto gran caso, se non che qualche giorno dopo doveva andare a una riunione della commissione di contea e i capelli non gli sarebbero ricresciuti in tempo. La colonizzazione del territorio procedeva così spedita che si stavano già mettendo in piedi le strutture amministrative della contea e papà doveva dare una mano. Era il colono di più lunga data nella regione e non poteva sottrarsi a quel dovere. La riunione si sarebbe tenuta nella concessione di Whiting, 4 miglia a nord-est della città. Certamente sarebbe stata presente anche la signora Whiting e davanti a lei papà non poteva tenere il cappello in testa. Oh, non è grave, lo confortò mamma. Basta dire com'è successo. Probabile che anche loro abbiano i topi in casa. Avremo cose ben più importanti da dirci, rispose papà. No, è meglio lasciar credere che è mia moglie che mi taglia i capelli così. Charles, non farai mica una cosa, cominciò mamma prima di rendersi conto che papà scherzava. Quel giorno, partendo con il carro, papà disse di non aspettarlo a pranzo. Tra andata e ritorno erano 10 miglia, senza contare il tempo della riunione. Tornò che era ora di cena, staccò i cavalli ed entrò in casa in fretta, mentre Grace e Carrie erano appena uscite dalla porta per cogliergli incontro. Ragazze, Caroline, gridò, indovinate che cosa vi ho portato? Teneva una mano in tasca e aveva gli occhi che ridevano. Caramelle? Esclamarono Grace e Carrie insieme. No, qualcosa di molto meglio, disse papà. Una lettera? Chiese mamma. Un giornale? Disse Mary. Magari l'Advance? Laura stava guardando la tasca di papà. C'era qualcosa che si muoveva là dentro e non le pareva proprio che fosse la mano. Lasciate vedere Mary per prima, disse papà, tirando fuori la mano di tasca. Era un minuscolo gattino grigio, azzurro e bianco. Papà lo posò con delicatezza nella mano di Mary. Lei gli accarezzò il dorso con un dito, gli sfiorò le orecchie, il naso, le zampine. Un micino, disse stupefatta, un micino minuscolo. Non ha ancora gli occhi aperti, le disse Laura. Ha il pelo grigio-azzurro come fumo di tabacco e il muso, il petto e le zampe e la punta della coda bianchi e delle unghiette bianche piccole piccole. È una femmina. Non è ancora svezzata, disse papà. Ma ho dovuto prenderla, se no se la portava via qualcun altro. Whiting si è fatto mandare un gatto dall'est, una gatta anzi, che ha appena avuto i piccoli. Ne vendevano 4 a 50 centesimi l'uno. Hai pagato 50 centesimi per questa micina? Esclamò Laura stupefatta. Eh sì, disse papà. Hai fatto bene, Charles, intervenne subito mamma. Avere un gatto in casa li vale tutti quei 50 centesimi. Si riesce a tenere in vita un micino così piccolo? Chiese Mary preoccupata. Certo, disse mamma. Bisogna dargli da mangiare spesso, lavargli gli occhi e tenerlo al caldo. Laura, cerca una scatola piccola e qualche ritaglio di stoffa tra i più soffici nel sacco degli scampoli. Mentre Laura preparava una cuccia morbida con una scatola di cartone, mamma fece scaldare un po' di latte. Poi, con pazienza, una goccia alla volta, lo diede alla micina con un cucchiaino. Lei cercava di afferrarlo con le zampette e di succhiare, e a poco riuscì a inghiottire un po' di latte, anche se una parte se la sbrodolò sul mento. Poi la misero nella sua cuccia e sotto la mano tiepida di Mary, la gattina si acciambellò e si mise a dormire. Ha 9 vite, come tutti i gatti, disse mamma. Starà benone, vedrete. Giorni felici. Il paese cresceva in fretta. Ormai stava diventando davvero una piccola città. Arrivavano in continuazione nuovi coloni che dovevano costruire case e botteghe. Una sera papà e mamma andarono in paese per dare una mano a istituire una chiesa e poco tempo dopo vennero poste le fondamenta dell'edificio. Con tutto quel lavoro anche papà fu ingaggiato come carpentiere. La mattina accudiva le bestie, poi andava in paese portandosi dietro il pranzo in una scatola di latta. Alle 7 in punto cominciava a lavorare e interrompendo giusto il tempo per mangiare, alle 6:30 finiva e tornava a casa. In quei giorni cenavano più tardi del solito, ma papà portava a casa $15 la settimana. Erano giorni felici. L'orto prosperava. Il gran turco e l'avena crescevano bene. Il vitellino ormai era svezzato e col latte scremato potevano fare il formaggio fresco e avevano la panna per il burro e il latticello. Ma soprattutto papà guadagnava tanti soldi. Mentre lavorava nell'orto, Laura pensava spesso all'università di Mary. Erano 2 anni che sapevano dell'esistenza di un'università per ciechi nello Iowa, e da allora ci pensavano ogni giorno e ogni sera pregavano perché Mary prima o poi potesse frequentarla. Il più grande dolore di Mary quando era diventata cieca era stato di dover rinunciare al progetto di diventare maestra. Le piaceva tanto leggere e imparare cose nuove, ma quella strada ora le era preclusa. Sarebbe toccato a Laura fare la maestra, invece, anche se non ne aveva nessuna voglia, perché così avrebbe contribuito anche lei a guadagnare i soldi per mandare Mary all'università. Ma è giusto così, si diceva, zappando, perché io ci vedo. Vedeva la zappa e il colore della terra e il tremolio della luce e dell'ombra tra i viluppi dei piselli, e le bastava alzare gli occhi per vedere la sterminata distesa di erba ondeggiante della prateria e il lontano orizzonte azzurro, gli uccelli in volo, elene e i vitelli sul prato e tutti i colori del cielo e gli immensi cumuli bianchi delle nuvole estive. Lei vedeva tutto. Mary invece vedeva solo buio. Come sarebbe stato bello se Mary fosse potuta entrare all'università già quell'autunno. Non osava quasi sperarlo, ma papà guadagnava bene in quel periodo. E se ci fosse stata una remota possibilità che ciò accadesse, lei si sarebbe messa a studiare a testa bassa e a lavorare sui libri il più possibile per diventare maestra appena avesse compiuto 16 anni, che era l'età minima, e allora sì che i suoi guadagni sarebbero serviti a mantenere Mary all'università. Loro avevano tutte bisogno di abiti e di scarpe, e i soldi di papà dovevano servire anche a comprare farina, zucchero, tè, carne salata. E poi c'era da pagare la segheria per il legname con cui avevano costruito la seconda metà della casa, e avevano bisogno di carbone per l'inverno, e c'erano da pagare le tasse. Ma quell'anno avrebbero avuto i prodotti dell'orto, il gran turco e l'avena, e di lì a 2 anni avrebbero quasi potuto vivere di quello che produceva la fattoria. Se poi avessero allevato un maiale e delle galline, avrebbero avuto anche la carne. La regione ormai era colonizzata e selvaggina non ce n'era quasi più. La carne bisognava comperarla oppure allevarsela. Magari l'anno successivo papà avrebbe comperato un maiale e dei pulcini. C'erano già dei coloni che li avevano da vendere. Una sera papà venne a casa raggiante. Caroline, ragazze, c'è una sorpresa! Esclamò tutto allegro. Ho visto Bost in paese oggi. La signora Bost vi manda dire che ha messo una gallina a covare per noi. Oh, Charles! Esclamò mamma. Appena i pulcini saranno cresciuti abbastanza da sopravvivere da soli, ce li porteranno. Che bella notizia, Charles! È tipica della signora Bost, tanta generosità, disse mamma, piena di riconoscenza. E come stai? Hai avuto notizie? Sta benone! Ma ha così tanto da fare che questa primavera non è riuscita a venire in paese una sola volta, però vi ricorda tutte. Un'intera covata, disse mamma. Non sono tanti che farebbero una cosa del genere. Oh, beh, i Bost non hanno dimenticato come li hai accolti l'inverno che si erano appena sposati e sono venuti qua giù. Si erano persi nella bufera e noi eravamo gli unici coloni nel raggio di 40 miglia. Bost ne parla spesso. Ma che... disse mamma. Quello era niente, ma una covata intera significa avere il pollaio con un anno di anticipo. Se allevavano i pulcini e riuscivano a difenderli dai falchi, donnole e volpi, quell'estate avrebbero avuto qualche gallina, e l'anno successivo le galline avrebbero cominciato a fare le uova e le avrebbero covate, e di anno in anno avrebbero avuto galletti da mangiare e galline da tenere per le uova. Il pollaio sarebbe cresciuto e quando le galline fossero diventate troppo vecchie, ci avrebbero fatto il brodo e il pasticcio di pollo. E se l'anno prossimo papà riesce a comprare un maialino, disse Mary, tra un paio d'anni avremo pancetta e uova fresche a colazione, e lardo, salsicce, costine e testa in cassetta. E Grace potrà far arrostire la coda, intervenne Carrie. Perché? Chiese Grace. Che cosa vuol dire? Carrie ricordava il giorno dell'uccisione del maiale. Ma Grace non aveva mai tenuto la coda scuoiata davanti alla grata della stufa a vederla brustolire sfrigolando. Non aveva mai visto la mamma tirare fuori dal forno una teglia gocciolante piena di costine sugose e croccanti. Non aveva mai visto il piatto azzurro colmo di fragranti involtini di salsiccia, né sparso cucchiaiate del loro sugo rossiccio sulle frittelle. Grace aveva ricordi solo del territorio del Dakota e l'unica carne che conosceva erano i bianchi grassi tocchi di maiale salato che a volte papà comperava in paese. Ma un giorno avrebbero avuto di nuovo tutte quelle cose buone da mangiare, perché presto sarebbero venuti i tempi d'oro. Con tutto quello che c'era da fare ora e tutto quello che avevano da aspettarsi di bello, le giornate volavano e quasi non sentivano la mancanza di papà. Lo aspettavano la sera quando tornava a casa portando notizie del paese. A cena gli raccontavano tutto ciò che era successo durante il giorno. Quella sera avevano una cosa straordinaria da dire, non vedevano l'ora. Mentre mamma rifaceva i letti e Laura e Carrie lavavano i piatti della colazione, avevano sentito l'amicina miagolare disperata. Ormai aveva gli occhi aperti e giocava a rincorrere un pezzo di carta che Grace trascinava per la stanza legato a uno spago. Grace, attenta! Esclamò Mary. Bada di non fare male alla micia. Non sto facendo niente, rispose Grace. Mary non ebbe il tempo di ribattere che la gattina lanciò un altro miagolio. Grace! Esclamò mamma da una delle camere da letto. Le hai pestato la coda? Ma no, rispose Grace. La micia ricominciò a miagolare e Laura si voltò dall'acquaio. Smettila, Grace, cosa le stai facendo? Ma niente, rispose Grace, quasi mettendosi a piangere. Non la trovo più. Era vero, la micina non si vedeva. Carrie andò a guardare sotto la stufa e dietro la cassetta della legna. Grace si infilò dietro la tovaglia per sbirciare sotto il tavolo. Mamma guardò sotto il ripiano più basso dell'angoliera e Laura andò a cercare nelle camere. Poi ci fu un altro miagolio e mamma finalmente la trovò. Era nascosta tra il muro e la porta aperta e aveva acchiappato un topo. Era grosso quasi quanto lei e si dibatteva con tutte le sue forze. Riuscì anche a morsicarla. Ma la micina puntò le zampe e non lasciò andare la presa. Aveva affondato i denti nella pelliccia e non mollava, anche se era così debole sulle zampe che rischiava di ribaltarsi. Il topo la morsicò di nuovo e poi ancora una terza volta. Mamma corse a prendere la scopa. Tira sulla micia, Laura, del topo mi occupo io. Laura era pronta a obbedire, certo, ma non riuscì a trattenersi dal dire perché, ma non molla, guardala, è suo quel topo. Mentre Laura si chinava per afferrarla, la micina dette il tutto per tutto. Con un balzo saltò sul topo, artigliandolo con le zampette. Strillò perché quello l'aveva morsicata di nuovo, ma poi fu lei a morderlo forte sul collo. Il topo mandò uno squittio acuto e si accasciò sul pavimento. La micia aveva ucciso il suo primo topo, tutto da sola. Perbacco, disse mamma, non si è mai sentito di una lotta tra un gatto e un topo. La micina avrebbe dovuto avere lì mamma gatta a leccarle le ferite e a fare le fusa in segno di approvazione. Fu mamma invece a lavarla con cura dove era stata morsicata e a darle un po' di latte tiepido. Carrie e Grace le accarezzarono le zampette, la testa e il musetto umido e finalmente, sotto la mano calda di Mary, la micina si acciambellò e si mise a dormire. Grace prese il topo per la coda, lo portò fuori e lo fece volare lontano. E per tutto il resto della giornata non fecero che dire: stasera lo raccontiamo a papà. Quella sera aspettarono che papà si lavasse, si pettinasse prima di sedersi a tavola. Poi Laura rispose alle sue domande. Sì, aveva dato da bere ai cavalli, alla vacca e ai vitelli. Sì, aveva spostato i picchetti. Le notti erano così miti ormai che non era più necessario mettere le bestie nella stalla. Dormivano sotto le stelle e pascolavano quando ne avevano voglia. Finalmente giunse il momento di raccontare a papà l'impresa della gattina. Anche lui disse che non aveva mai sentito una cosa simile. Guardò la gattina che passeggiava tutta fiera per la stanza con la coda ritta e disse: "Quella micetta diventerà la più grande cacciatrice della contea". La giornata stava finendo nel miglior modo possibile. Erano tutti lì insieme. A parte lavare i piatti, non c'era più niente da fare fino all'indomani. Per cena C'erano pane e burro, patate fritte, formaggio fresco e insalata condita con aceto e zucchero. Dalla porta aperta e dietro i vetri delle finestre, la prateria era già in ombra, ma il cielo era ancora di un pallido azzurro e qua e là si accendeva una stella. Fuori passò una folata di vento e in casa l'aria si mosse, intiepidita dal calore della cucina economica. Sapeva di fresco e di prateria, di cibo e di tè caldo, di pulito e di sapone, e anche, appena appena, del vago profumo di legno che emanava dalle tavole nuove con cui avevano costruito l'altro pezzo della casa. Gran parte del piacere di quelle sere era sapere che il giorno dopo sarebbe stato come quello appena passato, uguale, ma anche un po' diverso, perché ogni giorno era un pochino diverso dagli altri. Fu allora che papà disse: "Ti piacerebbe lavorare in paese, Laura?" Un lavoro in paese. Nessuno riusciva a immaginare che lavoro potesse fare in paese una ragazza, a parte la cameriera all'albergo. "È una bella idea di Clancy", disse papà. Il signor Clancy era uno dei nuovi bottegai. In quei giorni papà lavorava per lui. Il magazzino è quasi finito, ci sta già trasferendo la merce e con loro è venuta qui anche la suocera che farà la camiciaia. "La camiciaia?" disse mamma. "Eh sì, sono tanti i coloni qua attorno, ormai che Clancy pensa di vendere soprattutto telerie e vuole avere qualcuno in negozio che faccia le camicie per chi non ha donne in casa." "È una buona idea," riconobbe mamma. "Ottima! Ah, Clancy non è uno che meni il can per l'aia," disse papà. "Ha portato una macchina da cucire per le camicie." "Una macchina per cucire? Tipo quella che abbiamo visto in un'illustrazione dell'Inter Ocean? Come funziona?" volle sapere mamma. "Beh, con un pedale che azioni col piede," rispose papà. "Il pedale fa girare una ruota che muove l'ago su e giù. Sotto l'ago c'è un rocchetto col filo. Clancy ci ha fatto vedere. Va come il fulmine e fa una cucitura su cui non avreste niente da ridire." "Chissà quanto costa," disse mamma. "Di gran lunga troppo per una famiglia normale," rispose papà, "ma Clancy la vede come un investimento. I suoi soldi alla lunga gli ritorneranno e con tanto di interessi." "Già," disse mamma. Laura sapeva che stava pensando a quanto lavoro risparmiava una macchina del genere, ma quando anche avessero potuto comprarne una spesa simile non avrebbe avuto senso solo per una famiglia. "E vuole che Laura impari a farla funzionare?" Laura si spaventò. Non voleva avere la responsabilità di una macchina così costosa. "No, no, sarà la signora White a farla funzionare," rispose papà. "Ed è lei che vuole una ragazza in gamba che l'aiuti con le finiture a mano." Si rivolse a Laura. "Ha chiesto a me se conosco qualcuno. Ho detto che tu sai cucire bene. Ecco, ti prenderebbe come lavorante. Clancy ha più ordini di quanti lei possa portarne avanti da sola. Una brava lavorante la pagherebbe 25 centesimi al giorno più il pranzo." Laura fece i conti in un batter d'occhio. Voleva dire 1,50 dollari alla settimana. Poco più di 6 dollari al mese. Se lavorava con impegno e la signora White era contenta di lei, magari poteva andare avanti tutta l'estate. Sarebbero stati 15, forse perfino 20 dollari per contribuire a mandare Mary all'università. Oh! Non aveva nessuna voglia di andare a lavorare in città, in mezzo a gente strana, ma non poteva rifiutare l'occasione di guadagnare 15 dollari e neppure 10 o 5. Si fece forza e disse: "Posso andare, ma?" Mamma sospirò. Non che mi piaccia molto, ma non saresti sola in paese. Ci sarebbe comunque sempre anche papà." "D'accordo, se vuoi puoi andare. Non voglio che dobbiate fare anche la mia parte qui in casa," balbettò Laura. Ma Carrie si offrì subito di sostituirla. Era capace anche lei di fare i letti, spazzare, lavare i piatti e togliere le erbacce nell'orto. Mamma aggiunse che Mary era sempre di grande aiuto in casa e ora che le bestie stavano fuori anche di notte non c'era più tanto da fare nella stalla. "Sentiremo la tua mancanza, Laura," disse, "ma per il resto ci arrangeremo benissimo." L'indomani mattina non ci fu tempo da perdere. Laura andò a prendere l'acqua al pozzo, poi corse a mungere Ellen e tornò subito a casa a lavarsi, spazzolarsi i capelli e farsi la treccia. Si mise il vestito più nuovo, calze e scarpe e prese con sé il ditale e un grembiule pulito e stirato. Quel po' di colazione che riuscì a inghiottire le parve senza sapore. Si legò la cuffia sotto il mento e partì con papà alla volta del paese. Dovevano cominciare a lavorare alle 7. L'aria aveva tutta la freschezza del mattino, le stornelle cantavano e dalla palude di Big Slough si levavano in volo i tarabusi, con il lungo collo teso avanti e le zampe penzoloni, mandando il loro breve verso rimbombante. Era una bella mattina piena di vita, ma papà e Laura avevano troppa fretta per godersela. Facevano la gara col sole. Mentre il sole si levava, senza fare la minima fatica, loro andavano di buon passo sulla carareccia che correva nella prateria e portava all'estremità meridionale di Main Street. Il paese era così cambiato che Laura stentò a riconoscerlo. C'erano due nuovi isolati sul lato occidentale di Main Street, tutti formati da edifici recentissimi del tipico colore giallino del pino. Lungo gli edifici correva un nuovo marciapiede di tavole di legno, ma papà e Laura non si dettero nemmeno il tempo di attraversare la strada per salire sul marciapiede e infilarono invece lo stretto sentiero polveroso che correva sul loro lato della strada. Da quella parte erano ancora vuoti tutti i lotti di terreno fino alla stalla e al magazzino di papà, all'angolo tra Main Street e Second Street, ma più avanti, dall'altra parte di Second Street, nel lotto d'angolo c'era un edificio in costruzione. Poi il sentiero proseguiva tra altri lotti vuoti fino al magazzino di Clancy. Il magazzino era ancora tutto nuovo e profumava di segatura. Sapeva anche un po' del vago odore di amido che hanno le pezze di stoffa. Ce n'erano moltissime impilate sugli scaffali alti fino al soffitto che correvano di qua e di là dietro i due banconi. Mussole, cotonine, batista, cotoni stampati, cashmere, flanelle, perfino sete. Non c'era altro in quel magazzino. Nessun prodotto di drogheria, né utensili e neppure attrezzi e scarpe. In tutto il negozio c'erano solo stoffe. Laura non aveva mai visto un posto simile. Il bancone di destra aveva una parte del piano fatta di vetro. Sotto si vedevano cartoncini di bottoni di ogni foggia e colore e cartine di aghi e di spilli. Accanto c'era una rastrelliera piena di spolette e matassine di filo di tutti i colori. Nella luce che entrava dalla finestra formavano una macchia allegra. La macchina per cucire troneggiava dietro l'estremità anteriore dell'altro bancone accanto alla finestra. Le parti in metallo e il lungo ago sottile brillavano e il corpo in legno era così lucido che quasi splendeva. Su un perno nero era infilata una spoletta di filo bianco. Laura non avrebbe toccato quella macchina per nulla al mondo. Il signor Clancy stava srotolando pezze di cotonina davanti a due uomini con la camicia lerce e sbrindellata. Un donnone grande e grosso, con i capelli neri tirati in una crocchia stretta in cima alla testa, stava spillando pezzi di giornale sagomati su un taglio di cotone a quadri, steso sul bancone accanto alla macchina da cucire. Levandosi il cappello, papà la salutò. Signora White, disse, questa è mia figlia Laura.